Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata, l'adesione della Regione all'associazione internazionale che promuove le tecnologie dell'idrogeno in campo energetico, l'incontro a Bologna dei rappresentanti della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, i dati di una ricerca sulle discriminazioni legate all'identità sessuale e di genere. Ma cominciamo con le iniziative che riguardano l'alluvione costantemente al centro dell'attenzione del dibattito in Assemblea. Una ventina di edifici scolastici danneggiati su circa 100 monitorati e un fondo da 20 milioni di euro istituito dal governo con il decreto Emilia-Romagna per risolvere le criticità strutturali. L'assessora Paola Salumoni è intervenuta in commissione assembleare per fare il punto sulla situazione delle scuole in Emilia-Romagna dopo l'alluvione. Gli edifici più danneggiati, ha riferito, si trovano prevalentemente nel Ravennate, nei comuni di Brisighella, Casola Valsegno, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo e Conselice. Oltre al fondo statale, verrà attivato lo strumento Adotta una scuola, già usato per il terremoto in Emilia, per destinare le donazioni a progetti specifici. Resta ancora in sospeso il tema dell'esenzione delle tasse universitarie per gli studenti delle zone alluvionate. L'auspicio è che sia contemplato anche un rimborso per chi ha già pagato. Lo spiega la consigliera Marilena Pillati del Partito Democratico. Una proposta di risposta da parte del governo attraverso un decreto che pare prevedere l'esenzione dal pagamento delle tasse che dovrebbe coinvolgere unicamente gli studenti che non hanno ancora concluso il pagamento. E riteniamo che questo, ove si verificasse, rappresenterebbe un elemento di discriminazione difficilmente condivisibile. Salumoni ha anche riferito su quanto fatto per garantire continuità didattica nelle situazioni più critiche e ricordato i tanti studenti che hanno aiutato la popolazione nell'emergenza. Sul tema è intervenuta Valentina Castaldini di Forza Italia. Aggiungo un dato, quello più importante, che è quello relativo ai volontari, ai tanti ragazzi che hanno deciso di aiutare in questo momento. Ecco, forse il nostro compito, anche quello della politica, è guardare con attenzione e cercare di sollecitare sempre di più questa grande generosità che abbiamo visto e che ci ha molto colpito. Continuiamo a parlare degli effetti dell'alluvione. In una interrogazione a risposta immediata, i consiglieri della Lega hanno chiesto conto degli interventi che la Regione intende finanziare direttamente per le popolazioni danneggiate. Sentiamo Andrea Liverani. L'assessore mi ha risposto che ci saranno circa 8 milioni di euro. Per noi è troppo poco, servono più soldi, soprattutto anche per le pulizie dei fiumi che in questi ultimi anni non sono mai state fatte. E sempre in aula con un question time, Silvia Zamboni di Europa Verde ha riportato l'attenzione sulla bretella autostradale tra Campo Gagliano e Sassuolo per collegare il distretto ceramico attorno a Sassuolo con l'autostrada A22 del Brennero. Di fronte a quello che sarebbe un blocco dei cantieri, la consigliera ha chiesto di rivedere la realizzazione dell'infrastruttura che la Giunta considera funzionale allo sviluppo economico del territorio. Pensiamo che il fatto che la società concessionaria stessa abbia chiesto la sospensione dei lavori sia l'occasione per ripensare questa bretella e per passare dall'asfalto al ferro. Questo contribuisce a ridurre le emissioni climalteranti, quindi quelle alla base dei cambiamenti climatici, come ci insegna questa alluvione, e anche l'inquinamento atmosferico. Nel suo question time, Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia ha chiesto conto alla Giunta della situazione verificatasi a Goro, in piazza Pertini, dove ha suscitato allarme la fuoriuscita di gasolio dal sottosuolo. Nell'area, da tempo sottoposta a bonifica, era presente un distributore di carburante utilizzato in passato per le barche. Sentiamo Evangelisti. Ci sono idrocarburi che affiorano, c'è quindi un pericolo per la salute e anche un pericolo ambientale. L'assessore ci ha rassicurato dicendo che la situazione è monitorata e che la Regione interverrà anche economicamente. Noi auspichiamo che ciò possa avvenire al più presto, abbiamo fatto pressione anche ai livelli istituzionali più elevati, quindi alla Camera e al Senato, e unitamente alla Regione speriamo si possa divenire ad una soluzione definitiva. E adesso parliamo di energia. La regione punta sull'idrogeno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea. In base alla recente legge approvata dall'Assemblea Legislativa, l'Emilia-Romagna entrerà a far parte dell'associazione internazionale Hydrogen Europe, che mira a promuovere l'adozione delle tecnologie dell'idrogeno come fonte di energia alternativa e fattore di promozione di una società a emissioni zero. L'associazione senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles, ha spiegato la relatrice della legge Giulia Pigoni della lista Bonaccini, rappresenta attualmente più di 462 soggetti, tra cui 345 aziende industriali e non, 35 associazioni nazionali, 32 regioni europee, insieme ad altri soggetti della ricerca, enti no profit e agenzie. L'Assemblea ha anche approvato due ordini del giorno della maggioranza. Sentiamo Pigoni. Abbiamo poi abbinato a questo progetto di legge di adesione a questa associazione anche due ordini del giorno in cui abbiamo voluto parlare di prevalenza ovviamente dell'idrogeno verde, ma comunque anche la richiesta di continuare in tutte quelle che sono le azioni che la Regione sta mettendo in campo per fare sì che sia utilizzato sempre di più l'idrogeno anche in settori di sviluppo che possono diventare sempre più importanti per la nostra regione. Attenzione a non fare troppi salti in avanti al richiamo che viene dalla Lega, che si è astenuta sul provvedimento. Per Emiliano Occhi la legge approvata andrebbe nella direzione auspicata, ma è necessario contenere la spinta verso la transizione ecologica, rimanendo all'interno di alcuni paletti, per evitare di spendere inutilmente dei fondi per tecnologie che si sono poi dimostrate inutili. Secondo noi l'idrogeno può essere utilizzato in alcuni settori industriali, non altri come quello della mobilità leggera. Abbiamo proposto un ordine del giorno proprio per chiedere che la Regione seguisse un po' la nostra impostazione, questo ordine del giorno non è stato approvato. Abbiamo deciso quindi di astenerci poi sull'intero provvedimento. Passiamo ai lavori della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, che con i suoi rappresentanti giunti da tre continenti si è riunita a Bologna nei giorni scorsi. Una raccolta fondi e un lungo applauso per le popolazioni colpite dall'alluvione hanno segnato l'inizio dell'annuale riunione, alla quale hanno partecipato 32 consultori e consultrici in rappresentanza di associazioni dal Sud e dal Nord America, dall'Europa, dagli enti locali e dalle università italiane. Tante le attività svolte e patrocinate dall'organo di rappresentanza dell'esperienza migratoria regionale. Per il 2023 sono circa 40 i progetti finanziati, per un totale di 380.000 euro. E poi le opportunità rivolte alle nuove generazioni, con 6 borse di studio per la frequenza di un master in relazioni internazionali nella sede di Buenos Aires dell'Università di Bologna. Al centro della riunione anche i progetti futuri, come spiega Marco Fabbri, presidente della consulta. Il prossimo anno sarà l'anno del turismo delle radici, il 2024, quindi l'anno dedicato ai piccoli borghi, alla riscoperta delle proprie tradizioni, quindi su questo saremo sicuramente molto attivi a fianco del Ministero perché questa azione vada al meglio e che sia anche un'opportunità di riscatto per quei piccoli borghi che oggi sono le perle ancora non troppo conosciute dell'Emilia-Romagna. Sulla stessa linea la vicepresidente della consulta, Valentina Stragliati, che ha sottolineato come questi eventi siano un'occasione per promuovere le eccellenze dell'Emilia-Romagna. Cambiamo argomento. Una ricerca commissionata dalla Regione Emilia-Romagna ha coinvolto oltre 1.000 persone, homo, bis e transessuali, per indagare il fenomeno spesso sommerso delle discriminazioni e violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Una persona su 4 ha dichiarato di aver subito almeno un'aggressione sessuale o fisica, una su 2 di aver ricevuto minacce o insulti e quasi 8 su 10 sono state calunniate o derise. I risultati dell'indagine condotta sul territorio regionale sono stati presentati in commissione parità dagli stessi curatori, Luca Trappolin e Paolo Gusmeroli dell'Università di Padova. Sentiamo Trappolin. Il primo aspetto riguarda l'eccezionalità di una violenza fisica di tipo aggressivo e di tipo estremamente lesivo. Al tempo stesso i dati che abbiamo raccolto ci mostrano la regolarità di una discriminazione, se vogliamo, banale, che si esplica in aggressioni verbali, minacce, insulti, derisioni, rispetto alle quali 8 persone su 10 ci hanno detto di essere state coinvolte. L'indagine, ha ricordato l'assessora Barbara Lori, intende gettare un fascio di luce su quanto queste persone subiscono nel quotidiano per elaborare politiche adeguate di prevenzione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni. Dello stesso avviso Federico Amico, presidente della Commissione Parità. L'impegno che ci prendiamo è quello chiaramente di continuare nel contrasto alle discriminazioni, nel tessere una rete di associazioni, servizi e istituzioni per rendere sempre più accogliente il nostro territorio regionale. Prima di concludere, ricordiamo la raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna per sostenere le comunità colpite dall'alluvione. È possibile versare un contributo sul conto corrente intestato all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna con la causale Alluvione Emilia-Romagna. Tutte le informazioni sul sito assemblea.emr.it. Grazie per essere stati con noi e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.